Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? E buongiorno anche a Luigi, tornando in diretta per l'ultima puntata dei Magazine. 333-180-9494. Grazie a te per la preziosa presenza che ricambio con la compagnia. Grazie Luigi, a risentirci dopo le vacanze con la consueta programmazione. E come Luigi, ti aspetto. L'augurio a te di un buonissimo mese di agosto, un caloroso abbraccio. Un po' di citazioni, la sigla di Altri Suoni è Jan Jalinek con Silver Circle, mentre la sigla dei Magazine ormai da anni, da 10 anni a questa parte, è il chitarrista Ronnie Jordan con Seed New. Per i Magazine ringrazio invece una colonna fondamentale per i miei weekend in quel di Loreo, nel Delta Veneto Polesano, Alessandro detto Sandrino Gennari, via Roma 4 a Loreo. Lui presentissimo, sa tutto e tiene i Magazine con grande cura, finché non mi vede arrivare, e se tardo un attimo addirittura di persona al bar porta i Magazine. Diamo il buongiorno anche al nostro direttore Alessandro Canella, ma soprattutto a Irma, che è già venuta qua a reclamare la merenda, ma è un po' prestino Irma, a breve forse. Ah, intanto abbiamo deciso che Irma resta qua con me, ne sono ben contento, magari mi dà una mano a fare i Magazine. Ultima puntata 2022-2023, sta sgranocchiando una sedia in mancanza d'altro. No, grande Sandrino Gennari, che porta costantemente l'informazione con grande puntualità. È un takeaway anche, nel senso che tu passi in macchina, lui esce dall'edicola, fornisce direttamente la carta stampata o la pubblicazione, è una consegna veramente molto precisa. E per quanto riguarda questi aspetti diversamente normali, salutiamo intanto i turisti che stanno arrivando, non so se per motivi di lavoro o per motivi appunto di svago, di diporto, stanno atterrando adesso. Benvenuti a Bologna. Abbiamo parlato di un aspetto diversamente normale. Ecco, allora l'apertura a pagina 6 per quanto riguarda la domenica del Sole 24 Ore. Che persona speciale, però anche normale. Nuove ossessioni in una società in cui l'individuo vuole sentirsi unico e amante della diversità. Ci preoccupiamo di essere come gli altri per essere rassicurati sulla legittimità di desideri e azioni per giustificare tutto ciò, no? Io ho una mia idea che ho già portato più volte come la definizione diversamente normale. Allo stesso modo non vuol dire essere speciale, vuol dire quello che è diversamente normale, cioè quella normalità che ormai è diventato motivo di specificità, che viene confusa per chi vuole come desueta, oppure come apprezzabile, oppure insomma qualcosa che porta avanti ma che nello stesso tempo non dimentica. È una microsensazione, altra parola che amo tantissimo. Ma quello che troviamo nell'articolo a pagina 6 è qualcosa che presenta il saggio di Sarah Cheney. Sono normale? Punto di domanda. Che brutta parola, però, utilizzato. Infatti è un saggio di critica, come la normalità molte volte, o la definizione di normalità o il canone di normalità sia una giustificazione, e allo stesso modo ha anche un'altra brutta caratteristica, o almeno non bella. Chi ci vuole normali, ovviamente. È una scusa anche per poi poter avere una quantità di persone che siano allineati, dare dei canoni di normalità, no? Ma quale normalità? Anche se sappiamo benissimo, e qui cito un altro slogan, che visto da vicino, alla fine nessuno è normale. Il concetto di normalità è presente circa più o meno dall'analisi di Saraceni, autrice di questo lavoro Sono normale? Punto di domanda, è risalente a 2 secoli fa circa. Alcuni scienziati presero ad analizzare l'aspetto della definizione di normalità. Tante diverse storie, già a partire dalla metà dell'Ottocento e soprattutto all'indomani della guerra civile 1860-1865. Pensate un po', andiamo indietro. Beaten without a glimmer of hope, when there's always a rope to pull you up a slope, no need to grow around in the dark, take your gear out of park, put it into first and not reverse when things get worse, hard. Ed è ben documentato il lavoro, è scritto piacevolmente, almeno la recensione dice ciò, facendosi perdonare molti giudizi tagliati con l'accetta e frettolosi. Se la critica però è efficace, la struttura analitica del volume è un pochettino più debole, dice con grande onestà l'autore dell'articolo Giuseppe Sciortino. Sono sempre e comunque un costrutto ideologico volto a legittimare certe pratiche di potere, appunto il riassunto di quello che può essere la definizione di normalità. Dopodiché, ovviamente, tanti sono gli slogan come quello di Occupy Wall Street, siamo il 99%, ecco, appunto anche questo rassicura, no? Nella normalità, tra virgolette. Dopodiché anche un aspetto più immediato in cui tutte e tutti, mi auguro, perché essere i primi della classe non è mai bello, sono capitati. Insomma, nel compito in classe di matematica abbiamo preso 2, ma siamo andati male poi un pochino tutti, questo per salvare la paghetta spesso era il motivo. Sì, ho preso 2, ma tutti poi siamo andati male. La normalità, quindi, in questo caso aiuta a evitare la punizione, a salvare la paghetta, come conclude l'articolo di Giuseppe Sciortino a pagina 6 per Scienza e Filosofia. Scusate, mi sono concentrato di più sull'autrice del lavoro, Sara Cheney, appunto, che ha aperto i nostri magazine sull'inserto del Sole 24 Ore la domenica. A tra poco. Chi nobe? I'm in diretta, sono le 8:15 minuti. Volevo approfittarne per mandare gli auguri nell'oltre poi, non solo, anche nell'oltre Adige, perché oggi abbiamo la consacrazione di un'unione in quel di Cavarzere per omen nomen, dicevano i latini, il nome e il destino. Roger Campion, che saluto, un campione non solo di nome ma anche di fatto, amico del Breakfast Club, che oggi appunto confermerà il suo convolare a felici nozze, e quindi gli auguri arrivano anche da Bologna, dalla prima colazione in diretta. E a tal proposito un cin cin come con il nettare degli dei, il famoso Ambrosia, che era cibo e nettare degli dei, una delizia, qualcosa di unico e speciale, insomma, sì, nella mitologia, che poi veniva anche definito nettare semplicemente, però noi restiamo sempre in maniera più mitologica, perché del resto Roger è un mito. Tanti auguri Roger, Ambrosia, loro sono The Reminiscent Drive e te lo dedichiamo. Questo augurio, e dopo l'Ambrosia di Reminiscent Drive per Art Communication, abbiamo parlato di normalità, e adesso dalla normalità, la normalità dove poi porta a un'obbedienza, quindi agli ordini. Can you see it, my brothers? Can you see the new? l'esperienza più frequente nella nostra vita è quella di obbedire a qualcuno, no? E se vogliamo essere normali, questa è la conseguenza, è il collegamento che c'è poi tra le argomentazioni di oggi. Pagina 13, Robinson, l'inserto di Repubblica. Se lo chiede Georges D.D. Huberman per un saggio edito da Luca Sossella per la traduzione di Maria Nadotti. È interessante avere questo aspetto che non riguarda solo i regimi autoritari, ma anche le nostre democrazie, anche lo stereotipo, anche l'abitudine, anche la normalità. The new vibe, shaking me, making me alive and drive, striving towards my goal. Beh, come ho detto più volte, anche dall'approfondimento che trovo in questa presentazione, l'idea del disubbedire, a questo punto mi rivolgo soprattutto ai giovani, a quello che trova poi, perché molto spesso ci viene anche proposto di disubbedire, no? Siate ribelli, le famose ragazze ribelli, ma che ribelli siamo se c'è qualcuno che ci deve dire di essere ribelli? So pick up yourself and see the new day breaking, making you tighten your belt. Quando un'arma diventa istituzionalizzata e come un monumento che prende la polvere è una lancia spuntata, appunto l'aspetto di essere, c'era chi era che diceva stay foolish, stay angry, restate affamati, restate pazzi, insomma questo invito, no? Quando poi arriva addirittura da determinate voci, fino a che punto è un motivo vero e proprio di disubbedienza? Sempre stato un po' il motivo di critica anche del Breakfast Club, no? Questa finta, come quelli che portano a eco e tutte le parole che danno un greenwashing per fingere l'attenzione all'ecologia, poi in realtà fare le peggio cose, no? Invitare la disubbedienza per poi creare un esercito di normali. The Herald News School poet on the mic sings. Got to see the new ways you can pull strings in order to get what you want out of this life. Strife must end. Put the pen to the paper, the shaper. Things è quello che trovo anche nelle parole del saggio che ho appena presentato, il saggio di Georges D.D. Huberman, perché obbedire, punto di domanda, e le motivazioni e l'approfondimento. E a proposito di obbedienza, nel prossimo articolo invece, portando la lettura del Corriere della Sera, perché spazieremo un pochettino ovunque per quanto riguarda i nostri magazine quest'oggi, avremo i percorsi storici e obbedienza e la schiavitù, punto di domanda, altro argomento che si collega con questo inizio dei magazine di oggi, ultima puntata 31 luglio 2023. Intanto allora siamo a lunedì, però aggiungiamo anche che il martedì è stato portato avanti per tutta la stagione da Paolo Onofri per il Breakfast Club, che volevo citare in quest'ultima puntata e ringraziare ulteriormente. Grazie Paolo, ovviamente ci risentiremo nel primo martedì della stagione 2023 e 2024. feet, not hard and cold like on a street. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Apprezzo molto chiaramente la presenza di un compagno, collega, amico, chi più ne ha più ne metta. Finalmente mattiniero, potevi essere un po' più puntuale. Intanto ti libero dal gioco di Irma e do il buongiorno a Sergio Fanti. Buongiorno Sergione. Ciao, buongiorno. La voce è ancora provata dall'accoglienza sono provato dall'accoglienza di Irma. Sì, ma è stata veramente un'accoglienza calorosissima, affettuosa, sempre bellissima. Guarda che adesso tecnicamente devi sapere che il jack della cuffia esattamente va lì. Bravo Sergio. Clic, hai sentito? Sì, adesso mi sento. Mi sento bene, non devo più andare dal medico. Qual buon vento, Sergio? Qual buon vento? Devo preparare delle cose per mercoledì, per la trasmissione di mercoledì. Sono passato, poi sapevo che oggi è l'ultimo giorno in cui tu presenzierai in questa terra che colpevolmente stai cominciando a trascurare. Però allo stesso modo diciamo che non faccio mancare nulla. Assolutamente. Magari no, dal punto di vista dei weekend, però in settimana la mia presenza è costante. Hai degli omaggi oggi per Irma o sei stato? Di solito tu sei molto generoso. Sì, no, oggi non ho omaggi. Non ho omaggi anche perché sarebbe stato l'ultimo giorno e quindi così. Comunque mi rifarò adesso a fine agosto. Quando rientri alla ripresa, sì, qualche regalo del dopo vacanze, qualche giochino nuovo perfettamente equivalente ai vecchi chiaramente, ma che lei percepirà come una novità assoluta perché ci vuole bene, capito? Sì, sì, e quindi è tollerante anche con la nostra ripetitività. Sì, che le persone diciamo non giovanissime capita ormai. Poi diciamola tutta, sei qui anche perché vuoi magazine, giustamente, ma è una lettura che ti tiene compagnia durante la settimana? Quando riesco a trovare tempo ed energie anche per leggerli, sì. Bene, mi fa piacere. Sono un affezionato dei magazine e anche di questa trasmissione che seguo sempre, in effetti. Grazie Sergio, e che poi con i magazine condividiamo anche lettura, critica, suggerimenti e quant'altro. Programmi per l'estate, Sergio, tu sei un appassionato e anche compositore, cantautore. Volevo da chiedertelo, te lo chiedo in diretta: avrai delle performance estive? Che bello che non ci sente nessuno. Performance estive un paio piccole, poi una ne farò una in occasione della premiazione di un concorso di poesia in cui c'è una sezione canzone e i primi tre classificati avranno il loro testo di canzone musicato dal sottoscritto ed eseguito live. Quindi. E perché nessuno deve sentirci? Perché sei un finto? Perché sono un finto umile. Ecco, vedi, però sei un caro amico e ti dedico questo brano. No, che no, è no, My no. Friend di Groove Armada. Andiamo in pubblicità e poi dopo torniamo in diretta, ok? Dai, a tra poco. Sergio Fanti, William Piana, quale miglior chiusura per i magazine? In my time of need, whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Thank you. Birds of Canada, Aquarius. The Music as Right to the Children, lavoro per la Scam Record del duo scozzese. Abbiamo una co-conduzione, tanto che leggo quello che è arrivato come monito. Ha verificato Lino che il primo settembre, per quanto riguarda l'inizio del Breakfast Club prossima stagione, è proprio di venerdì. E lo sai, né di Venere di Marte, né ci si sposa né si parte. Speriamo di smentirlo con una buona stagione. È un finale atipico, inizia la settimana e finisce il Breakfast Club. Questa decisione è diversamente normale, Sergio. Del resto siamo diversamente normali, eh? Te che dici, mio caro? Sì, ma è sbagliato il calendario, che finisce luglio il lunedì, comincia a settembre il venerdì. È sballato. È tutto sballato. È tutto sballato. Noi procediamo con i ringraziamenti. Allora, Silvia Albertazzi, che per il Voltiamo Pagina ha avuto chiaramente più che una co-conduzione, una conduzione, ma ne sono ben contento. Ho voluto impostare in questo modo anche perché il format letterario, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori, assolutamente molto molto seguito. E a proposito di magazine, la troviamo sull'edizione domenicale di Alias. Sì. Con un articolo, Strilli, tumulti e ipocrisia nella Parigi anni 50. E mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti per Silvia, perché come sai io vi seguo sempre, vi disturbo costantemente con i miei messaggi. Piacevolmente, anche se vogliamo. E veramente siete una coppiata davvero piacevole. Che funziona poi anche molto. Le selezioni, questo è il lavoro di Pierre Lemaitre, che viene presentato sull'inserto domenicale del Manifesto, uno degli scrittori viventi, secondo me, più talentuosi in assoluto. Quindi grazie Silvia. So che adesso sei in Canada, per cui ti auguro una buonissima permanenza. 34, 35, 36, 44. Sai, Sergio, che ha una grande importanza, ma tu lo sai già, nel nostro lavoro, ed è citato secondo me erroneamente poche volte, la figura dell'ufficio stampa. Sì. E io vorrei ringraziarli tutti. Tutti gli uffici stampa. Sì, cito qualcuno: Pepita Promoters con Rosselle Anna Maria, per Ert, Silvia Mergiotti, per Studio SC, Simone Raddi, e poi ne sto dimenticando, Michela Giorgini, e poi chi possiamo portare anche per non dimenticare nessuno? Elisabetta Severino. Ma. Tra l'altro collaboratrice di Radio Città Fulgito. Sì, è stata, me l'hai raccontato, anche... sì. Il nostro lavoro in simbiosi con gli uffici stampa, ogni tanto ci arrabbiamo anche con gli uffici stampa, perché stanno giustamente, fanno il loro lavoro, stanno un po' col fiato sul collo, si sovrappongono, ma è fondamentale la presenza dell'ufficio stampa per avere contatti con i protagonisti che portiamo al microfono dei nostri format e per l'organizzazione stessa del format. Quindi insomma un caloroso abbraccio a questa figura che spesso è dietro le quinte, per così dire, definiamolo così, un po' dietro le quinte. Oliver Chatman nella nostra playlist magari ci fa un po' ballare, anche se Sergio ha già acceso il ventilatore. Yeah. A breve la conclusione di stagione con due hit. Come sapete, da 10 anni a questa parte, contrariamente né di Venere né di Marte, ci si sposa né si parte, appunto per questo calendario sballato. Come sapete, alla conclusione, l'ultima puntata, 10 anni di Breakfast Club, concludo con la sigla come un messaggio di continuità per la stagione successiva. Per cui avremo un altro brano e poi manderemo la sigla del Breakfast Club, che ascolterete magari in versione più estesa, anche perché Harold Melvin and the Blue Note con la voce di Teddy Pendergrass, insomma, mica male, eh? Un articolo, tornando ai nostri magazine che, come ho detto, oggi sono un po' frammentati dalla presenza non solo di Sergio ma anche dei ringraziamenti che a fine stagione arrivano costantemente, non solo doverosamente ma anche con grande piacere. A pagina 14 della lettura del Corriere della Sera aggiungo questo per dare un po' un filo conduttore agli articoli che ho selezionato oggi. Un long format riportato da Pierluigi Valsecchi dal titolo Il debito verso gli schiavi, un saggio di Howard W. French, dimostra come la tratta atlantica dei neri sia stata, eh sì, purtroppo essenziale per lo sviluppo delle Americhe, abbia contribuito in modo decisivo alla nascita del mondo moderno, in precedenza col colonialismo per quanto riguarda il depredare le risorse, in seguito con la tratta degli esseri umani. Eppure questo dato non è stato riconosciuto, come dimostra la persistenza del razzismo. È certo che non è stato riconosciuto, come possiamo continuare a sfruttare se riconosciamo questa caratteristica e questa realtà, no? La stessa abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America, ne parlano infatti non solo nell'articolo ma in diversi testi, è arrivata non per particolari motivi per diritti umani, diritti civili, è arrivata perché si è considerato che alla fine costava meno un operaio che uno schiavo. Lo schiavo ovviamente devi portarlo in condizioni di salute ottimali e non solo il mantenimento e quant'altro. L'operaio, salario, quando c'è la sua paga, e poi per il resto, visto che gli Stati Uniti d'America all'epoca stavano vivendo una trasformazione da agricolo a inizio industriale, hanno visto bene, aspetta, facciamo questa trasformazione così ci lustriamo anche di essere vicini ai diritti civili. Ma alla fine importante l'aspetto che il costo di uno schiavo era superiore al costo di un operaio. Diedero ogni schiavo liberato, ogni capo famiglia, c'è anche la casa di produzione di Spike Lee, la 40 acres and a mule, davano 40 acri di terra e un mulo, cioè come per dire davano un motivo di sostentamento ma veramente risicato e una Fiat Uno, ecco. Piace l'idea di paragone tra il mulo e la Fiat Uno, del resto è un muletto come macchina, certo. No? Quindi libri e geografie, interessante questa presentazione con la quale concludo la selezione dei quattro articoli di oggi che, come ho detto, è stata un po' così saltellante da parte a parte tra ringraziamenti, le visite in studio, Irma e... Sai chi è lei? È Diana Ross. Supreme, Motown, e oggi come ho detto avremo musica anche un po' ballerina, oltre che appuntamenti per quanto riguarda, non dico lavoro, ma la tua passione, un po' di vacanzine, non è che vieni a farle in Polesine con me, lo sai, e quante volte ti ho già invitato, non vieni mai, però è vero, è vero. Dai, dobbiamo rimediare. Dobbiamo rimediare, aspetto, sì. Decade 2010-2020, per me questo è il disco più bello dei Daft Punk, uscito per questa Measure che è la Columbia Random Access Memories, e ovviamente questo è il singolo che ha svoltato. The present has no rhythm, your gift keeps on giving, what is this I'm feeling? Vorrei citare tutti, come diceva Manzoni, no? Che pregava gli editori: pubblicatemi come fanno i miei 30 lettori, altrimenti come fanno i miei 30 ascoltatori, magari sarei già contento. Beh, diciamo che il talento è un po' diverso. è un po' diverso. Però, insomma, anche gli ambiti sono diversi. Certo, giusto. Anche l'intenzione di un romanzo è molto diversa da quella di una trasmissione in diretta. Ma sì, e poi le possibilità di diffusione e quant'altro. Insomma, potremmo. Hai trovato qualcosa di interessante sui magazine, quel po' che hai sfogliato? No? Ma guarda, io adesso... interessante. Io sono stregato dalla foto di Irene Papa nell'Odissea, che fu la prima cosa che io vidi in TV. Grande Sergio, cultura popolare di livello eccellente. Poi l'ho rivista molto più recentemente, mi sembra 2015-2016, e in effetti era un bel lavoro. Sì, sì. E Irene Papa era notevole, recitata davvero. Recitata anche da Ungaretti, quella Odissea lì, se non ricordo Sai male. Sai che non mi ricordo. Era uno sceneggiato televisivo. Sì, certo, quello degli anni 60. Beh, dopo è stata rifatta anche negli anni 70, perché me la ricordo anch'io, recitata da Ungaretti, un capolavoro assoluto, con mia madre che mi chiamava "ti come Polifemo". Hai capito? È un orco praticamente, un mostro, ma è giusto così del resto. E noi siamo giunti al termine, ringrazio per le attenzioni tutti i super mattinieri, le super mattiniere, do appuntamento a venerdì 1° settembre. Ringrazio per questa speciale improvvisata Sergio Fanti. Adesso magari mi attardo un pochettino per dare una mano al nostro direttore in rassegna stampa, così insomma avremo motivo di approfondimento sulle notizie che troviamo oggi sulle pagine dei quotidiani odierni. Vi auguro una buonissima estate, vi mando un caloroso abbraccio, vi do appuntamento a settembre per la stagione 2023-2024 e nuovamente una buona estate e lunedì, quindi anche una buona settimana e un buon ascolto sulle nostre frequenze. Da Sergio Fanti e da... Buona estate da William Piana, ecco. Buona estate, buona settimana e buon mese che comincia domani. Domani, esattamente, certo. E quindi iniziamo come chiudiamo, come inizieremo con la sigla, a tra poco con la rassegna stampa per chi vuole. Ciao a tutti. What it used to be, there's so much hatred, war and poverty. Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. The world won't get no better if we just let it be. Na na na na na na. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. But they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. The world won't get no better if we just let it be. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Change it, yeah, just you and me. Change it, yeah, change it. Can't do it alone, can't do it alone. Need some help, y'all, y'all. Need a little help, y'all. Yes, I do. Need a little help. changed the world from what it used to be. Ain't going alone. Ain't going alone. Need some help, yeah. Need some help, yeah. Have to say.